qua sul 10. Attenzione 10, c'è qualcuno in ascolto. Ehi Natalino, buongiorno. Buongiorno, chi è che non ti ho riconosciuto? Ehi, Tappalai, Franco da Sosso. Perché mi sta arrivando basso basso. Lo so, sto usando un baracchinetto che non c'ho l'alimentatore, capito, per andare avanti con l'altro. Buongiorno Natale. Hola. Ciao Riccardì. Ciao Natalino, non ho capito chi è l'altro, che stavo prendendo il microfono da dentro e da tavolo e non ho capito, sono arrivato adesso. Ehi Franco, ma sto usando un baracchinetto di quelli così. Ah, ho capito Franco. Ciao Franco, comunque solo se non ti ho riconosciuto e ti stavo facendo in fretta. Cazzo, non avere mai fretta nella vita, c'è tempo. Lo so, ma Natalino scappa, cioè scappa ogni volta, non lo trovo più. Quando l'ultima volta quando stavo entrando lui se ne stava già andando, Natalino. Vabbè, vuol dire che era tardi o che dovevo fare qualcosa. Lo so, per l'antenna. Come ti ascolto oggi? Santiago 7, compiti positivi a 8, era di 5. No, no, già sta andando bene. Vabbè, il microfono già è buono, è l'M300. Sì, adesso mi sono alzato ancora di più, sei arrivato a 9 pure. Davvero? Allora si è aumentata la situazione, l'alimentatore, perché c'è un alimentatore che fa partire. E K. Natali. Oia, dimmi. Un attimo che vado a prendere i cani che stanno abbaiando al mio vicino e sono le 9 di mattina, quindi non penso che sia molto gradito. Infatti. Ecco, nel giorno vi fa la vita del botteggio, se ne va. Nel giorno vi atta, no? Nel giorno lei e non ne vale manco. Natalino, ci sei? C'è rimasto su canale 10? Canale 10, c'è qualcuno? Avanti, usignolo! Avanti! Chi è? Riccardi! Cosa c'è, Franco? Dammi un controllino di radio a Santiago. Santiago 9, radio 5. Però è diversa la modulazione, però va bene. 5. La radio è preamplificata o normale? No, normale. Ma è bassa, No, non è bassa. Cioè, c'è qualcuno che è il tuo numero che ti mando una registrazione di come stai andando? Ma no, il numero di telefono non ne do più tardi. Comunque la radio va bene. Sì, va bene, ti ascolto bene, non ho problemi. Va bene da questa parte. Ok. Natalino è scappato. Vabbè, dai Franco, ci sentiamo dopo che vado in carica a colazione e vado a mangiarmi una cosetta e poi torno. Cosa vuoi, master? I segnali, ormai sono un master. Comunque ti ascolto. E io vado a mangiare una cosetta e spero di risentirmi. Faccio in fretta. Riccardi. Sei rimasto sul canale 10, ci sei ancora Franco? Ah, è Riccardino. Ciao Tonino. Al volo mi conosci io? Cosa? Mi conosci al volo? Già sto capendo le modulazioni. Bravo. Non c'è nessuno qua. È buono, lo so, sono andato a fare carichetta, c'era Master e Franco da Sorso e sono tornato, ci ho messo 5 minuti, non c'è più nessuno. Sono tutti scappati. Infatti. Chi è? Chi è che mi chiama? Chi ha chiamato Riccardino? Non è a voce. Bruciato tutto. Ha fuso. Ora si è scoppiato il baracchino. E forse anche tutta la postazione. Cosa ne sai? Se ce lo vuoi vedere. è rimasto caccarato. Non è bene, cadì, e oggi che fai a casa rimane? Boh, non lo so, se fa un po' brutto tempo resto in piscina, o se no vado al mare, No, io ce l'ho a fare, ho fatto cose campagna qua. C'è la 50 che sta pulendo, e io sono appoggiato a letto, ho vestito, ho già fatto le mie commissioni, sono andato al cimitero, sono andato a Usham, adesso sono entrato. Ah, cappa. L'orto l'ho inaffiato ieri sul tardi, quindi sono a posto. E la verdura ce l'ho. Anche noi ce l'abbiamo, la verdura sta crescendo. Ma io ho messo poca roba, pomodoro, citrioli, lattuga e iceberg. Ah capo, noi abbiamo messo qualcosa in più, ma niente di che, abbiamo messo radicchio, cipolle, iceberg, pomodori, poi abbiamo messo zucchine, citrioli e basta. Io le cipolle le ho tolte, ne ho già solo due, perché prima era libero e il cane me l'ha mangiata, ne è fatto un festo, allora ho tutto recintato e sono andato a mare le cipolle, quindi ne ho solo due, sto andando avanti. E qui non è tanto più, ci può le faccio pure a comprarle. Ho capito. E quindi anche voi state sempre prendendo roba di baracchini, vi state facendo la grande stazione. No, negativo, sto sbagliando di grosso. Come no, lo state sempre comprando. Sto scherzando, certo. Ah, ma qualche duro lo state prendendo? No, non lo so, Babbo è come un altro radiomatore, non faccio nomi, che non li usa qualche volta, però gli piace vederli. Come a me allora, a me piace avere tutto completo anche se non li uso. Infatti devo anche girare, più tardi attacco il valvolare che da un po' che non lo faccio girare. Ogni tanto mi accendo il PC, mi accendo. E cosa puoi fare? Per cambiare. Infatti su se no la mattina me non mi senti mai. Ho capito. C'è un po' di propagation ma bassina, forse aumenta più tardi, boh. Ecco adesso. Sono tutti a Nanerica di oggi domenica. Già lo so, c'era la mattina presto, il Dio Natale e poi è scappato. Certo. Chi c'è che vuole entrare sul canale? Dici? Nessuno, tutte carte contro il ministro. Roberto sta lavorando in officina, ricordi? Oggi no, Roberto di sabato e di domenica non lavora. Lo so, ho detto, ma lui lavora in officina, da quanto l'ho sentito. Sì, lavora in officina. Così, officina macchina o moto? Penso tutti e due. Perché ha riparato la moto di Eugenio e poi anche diverse macchine dentro, quindi fa tutte e due. Dove c'era l'officina? Vuoi pure zona quadrato, da. Sono andato però non so se dirlo. Non direi niente, lo so già dov'è. Sì, perché mi aveva accennato una persona. Sì, cappa. C'è poca gente a Usham, c'è un moratorio sempre, poi stanno cambiando tutti gli scaffali, è un casino. Siamo andati a prendere il pane e l'ho tutto spostato. Roba per la macchina e l'ho tutto spostato, ma va a fancina, ragazzi. Ho capito. Cioè l'ultima volta che sono passato davanti a Usham c'era la coda che partiva praticamente da, non so se sai dove c'è quella pizzeria, dentro Usham, quella piccolina, da lì fino all'entrata in fondo, quella dove scendi, hai capito? O non mi sono espresso bene? Praticamente la fila era dal primo ingresso, porta dei candelieri, se non vado errato, come si chiama, sino all'altro ingresso in fondo. Sì, positivo. Sì, ma adesso non c'è più fila, adesso puoi andare tranquillamente. Ma è proprio che non c'è neanche gente, è un mortorio. Poi stanno cambiando tutto l'ambaradano degli scaffali, io abituato che vado là, so già cosa c'è e cosa devo prendere. Ma non lì non c'è più. Allora devo chiedere dove cavolo e poi devo girare fino a trovarlo. Allora, sono per un casino, stanno ribrutturando il trovato. Ho capito, un mortorio. Adesso quando entravi all'ingresso, da giù, il primo ingresso, subito entravi dentro, in fondo, a destra trovavi il mangiare per i cani e tutto il resto, ciotoline e via dicendo. Adesso non c'è più lì, è vicino alla parafarmacia, tutto cambiato. Mia. Buongiorno, Antonino. Ui, buongiorno. Ciao, Antonello. Buongiorno anche a te. Beh, ascoltati. tu ti sei appena alzato dalla voce? No, sono in piedi dalle 9, sto cucinando, figurati. Ho messo le gambe del pollo fuori, interrato, scongelato, cazzo, ma sembra che ce ne è calmato. Avanti Riccardo. Cosa? Aspetta a riprendere tu. Cosa stai facendo di bello? Stai trabattando qua, cosa vuoi che faccia? Ah, via. Mi fanno male le mani, cazzo, stamattina, boh. Fanno male i tendini, fanno male. Non riesco a stringere bene la mano, tutte e due le mani. Ho preso freddo, vieni. Mi sa che hai dormito troppo. No, mi sono svegliato alle 9, figurati che ho dormito troppo. Mi sono allevato a mezzanotte. Vabbè, questa volta che eravamo con un coso, a baracchina ancora, appunto quell'ora, con un capri 2. Sono le due, sono due opzioni. O hai dormito troppo o ti sei rigettita la mano da quanto metti importante, no scherzo. È finita quella la metà importante. La metà Valghero io ho lineare del cazzo. Tanti anni fa. Mi sarà fatto il 90-93, una cosa del genere. Ha fatto io. Ma stai uscendo a scariche, mi Antone. Uscendo a scariche? Su Riccardino ci te le scariche. Sì, le sento, la busta di panottine c'hai accanto. Strano che sono scariche, sembra strano. Il microfono amplificato, magari ce l'avevo troppo vicino, non lo so. Comunque, volevo dire, poco fa è andato bene. Adesso a proposito, più tranquillo sia Antone. Sì, sì, adesso sì. Perché io ho fatto le orecchie di porco quella famosa notte. Io sono rimasto in ascolto fino a tardi. Ehi, calma già. Sì. Mi sono divertito la verità, si ricca. Quella notte lì. Era un casino, era uno sopra l'altro. Ma io ho fatto molto orecchie di porco. Molto molto ti va solo di ascoltare, non entrare, capito? Sì, capito, usciva tutto a cosa, l'importante poi me ne sono accorto che era lui, perché di solito quando fai passaggi lunghi così, ha già detto, Gianni non stai uscendo in radio, ha detto sistemati il microfono, allora poi c'è entrato, e dice, mi ha toccato mio figlio a fare il baracchino. E poi è entrato Claudio. Sì. Poi quando capri due ci mette a fare un passaggio, tu ti puoi fare due uova a te cammino, ti fai un pisolino, ti fai la passeggiata e poi rientra e lui sacca, se no guarda per carità. Quando lo butua, quando parla, vale anche 3-4 minuti. Tutti quelli che gli parlano sotto, figurati, ma non riescono a passarlo, perché Gianni ieri sera non passava, tantomeno cosa per attaccato. Figurati, sentivo più a Gianni di radio che a Chiaro 2 sotto. Sì, ho cambiato la stazione e non posso più attaccare quell'affare, perché mi ci vuole una stazione molto molto più lunga, non ce l'ho e non me ne affutto in vano, ce l'ho i piedi, non ne voglia, so come andrò liscio. Niente, mi sono ripristinato il mio PC, quello grande, se ben portate l'accia. E mi sono messo la DSL in casa, adesso mi diverto con Facebook. Ah, hai fatto bene. Almeno se ti diverti un pochettino. Vabbè, adesso vieni. Su Facebook di tutto di più c'è, cazzo. Sono poche ragazze degli Stati Uniti, roba del genere. Ne avrò almeno una ventina. Capito? Poi, tutto pieno. Non sanno cosa fare e quindi si mettono lì a cercare i soldi e a farsi di là. Riprendo i casi che sto controllando il pesce, il sardine, due minuti, che se no prendono fuoco qua. Riprendo io. No, ma infatti, scusa, ma non parliamo anche di signor Dollaro, quello è ancora più di Muros. Le donne le diamo tutte a Giuseppe Leoncino. Non ho capito se Antonello sta già cucinando le sardine, perché così chiedo. Sì, sta cucinando le sardine, infatti se non andava a spegnere le bruciava tutto, come quello che mi stava chiamando. e 10:30, neanche 10:30 c'è una forza, se no le cucine mezzo, mezzogiorno, mezzogiorno, un quarto, mezzogiorno e mezzo, ma non alle 10:30. Chi è che mi chiama? Amy. Guarda che c'è scoppiato il microfono. Chi è che ha chiamato Riccardino? Come è che è che manca a me? Ciao, c'è cuore, non ci vuole nessuno. Antonello, mollo la sardina. È che mi sono attuffato con le gambe del pollo congelate, sto cercando di scongelarle, ma quelli arriva con l'altro, aspetta un attimo. Me la metti sotto la corrente al limite, io ho anche il microonde che scongela anche la roba. Sì, adesso sai cosa faccio, prendo, ce le metto direttamente nell'acqua calda, nel biglietto dell'acqua calda, così almeno scongela prima, se no avevo una mezz'orino che non faccio più niente, aspetta 2 minuti. No, che rischio di precucinare quelli, no, fermo fuori, sì. Acqua fredda, sotto acqua corrente fredda, già ci scongelo, che cavolo. È stato sempre cucinare, poi me le gambe, non è che cambi molto. La faccio umido, quindi la faccio soffringere. C'è la scarica a testa, c'è. Cos'è che fai Donino con Claudio? Cosa ciò che l'ha cosa detto? Cos'è che fai con Claudio? Cosa posso con Claudio? E hai detto Claudio, vuoi sapere? Ho detto che eri in ascolto quando tu sei entrato con Antonello. E me, è Guido. Sono Guido. È Guido. Aspetta che invece mi sta chiamando al telefono, che è figlio. Sempre in ascolto. E anch'io sono sempre in ascolto. No, volevo capire cos'è che pulisci. Ciao Claudio. Ciao. E buon me. Se io devi mandare per me, sono capace di entrare. E abbassa l'amplificazione perché sono sui troppo alto. Io non tocco niente, non ho toccato niente. Allora abbassa il watt o togli? Abbasso il watt, 10 watt. E allora non parlare. Faccio proprio così, forse è meglio. È l'unica. Tanto non è quella mondetta che va in occhi. Buongiorno comunque, messa verde. Ehi, ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao Claudio. Ciao ciao. Ciao Riccardo. Avanti Roberto. Oh, ciao Riccardo. Non ci vuoi credere, oggi sto riconoscendo tutte le modulazioni. C'era Master che stava uscendo con il portatile e l'ho riconosciuto, Tonino. E adesso ho riconosciuto anche a te. E diciamo con le più forti già ce l'aveva il segnale sicuramente. Master Mario è un po' più difficile. Guarda, quando ti arriva Master? Con il portatile stava, boh, non mi ricordo il segnale, dopo se rientra. Comunque ciao Roberto. Sì, è già operativo, sì, no? Io ho acceso adesso, mi stavo facendo cosa a casa e piace vedere se c'è qualcuno. Ehi, mi che ho chiamato a quello. Quello del trio. Cosa ti ha detto? Domani viene per fare una prova, lo proviamo qui a casa. Ah, a casa tua? Con cosa lo provi però? Sono tornato dopo la pazza. Dimmi Claudio. Ti ho detto cos'è che ci avevi Claudio. E non rispondere arrogante, come sei, cazzo. Rispondi delicatamente, ti ho fatto una domanda. E io ti ho risposto delicatamente, lo sai il mio carattere qual è? Ho capito, ma sei troppo impulsivo, guardi che sei sempre sfidente da niente. Non c'è bisogno di rispondere in quella maniera. E allora? Che vuol dire allora? No, se tu eri in ascolto, come hai detto poco fa, c'è sempre in ascolto. Perché anche se telefono, ascolto anche lo stesso quello che dici tu, che sei sempre in ascolto. Mi hai fatto la domanda, giustamente, e ti ho detto sì, ero in ascolto. Cioè, ma pure ho detto esattamente sì, ho sentito quando è entrato anche Claudio, è tutto qua. Basta, chiuso il discorso. Ho detto più tranquillo, sì, perché era un po' agitato anche Antonello. Antonello agitato, io non ho partecipato al questione, sono entrato a spegnere il radio. Ho sentito Antonello, gli ho detto, sai che avevo lineare, per farlo incazzare, e poi sono rimasto in ascolto, ascoltando Gianni K2, e basta. Come vedi sono un po' assente, e penso di rimanerci a lungo, perché non mi piace più queste cose che stanno un po' nuovamente salendo a galla. Va bene, beh, è una domanda, pensavo volessi qualcosa, perché non ho sentito il discorso. Buona domenica a tutti, ci sentiamo, ciao. No, non mi serve niente a me qua. Quando mi serve qualcosa so già dove andare direttamente. Non certo al baracchino, perché il baracchino è una cionfa. Giustamente sì, l'avevo detto pure che ci faceva TY e staccare lineare. Quello l'ho sentito, ero in ascolto. Niente problemi. Sì, ma stavo scherzando. Quindi hai il mio stesso parere. Io quando ho bisogno di qualcosa vado a vedere. certo le persone, non mi nascondo dietro il microfono, mi conosci molto bene, no? Quindi però c'è gente un po' infame che fa cose che non mi piacciono per niente, quindi preferisco stare un po' in disparte prima che mi si girino di nuovo i pibilistri. Sì, ripeti, io, siccome ci ho mancato tanti anni, tu mi conosci abbastanza bene, grazie. Io mi faccio sempre i cazzi miei, scusa se parlo così perché a volte certe cose che penso poi mi danno anche fastidio. E non vorrei che qualche persona mette fuoco, eccetera, mi cerca un tizio che è sempre unio. Cioè, io sto, non vado diretto a dire, oh, perché tu hai fatto così con... No, io sto zitto, ascolto, vado, eccetera. E mi guardo un po' la questione se è veritiera o non veritiera, perché arrivato a questo punto la frequenza è un casino vero. Allora, non mi voglio sporcare più di tanto. Se mi devo sporcare, ci deve essere tanto. Per cazzate del genere, no. Capito? Sono abbastanza grande e maturo, non sono più ragazzino, non mi interessa mettere portante né niente, sono un tipo che se uno mi rompe i coglioni vado a persona e bussa alla porta, come stavo spiegando a Torino quella notte, tutto qua, niente, ne ho problemi, non ne ho e non ne vorrei avere, Claudio, tutto qua. Sì, di me con le patate, infatti, non siamo più ragazzini, perciò siamo sessantenni oramai, quindi si lavora con la testa, non con le mani, però se necessario qualche schiaffo a bocca a qualcuno, mi sa che devo nuovamente darglielo. Va bene, dai. Non me l'ascolto, Tonino, non c'ho motivazione per stare in radio in questo periodo. Me ne farà da un po' volare le balle la radio, dai. Detto papale, papalemi. Ok. Buon divertimento a tutti. E me ne passo, mi guardo dove sono io, guarda. Sono le HF 9 più 30, 9 più 40, quindi me ne passo lì e forse sto meglio. Ciao a tutti, buon divertimento. Ok, grazie. Vabbè, buon curiosito a caso. Niente, mi riaccendo il PC e... oppure mi guardo la TV, ne ho svaghe, diciamo. Perché ormai nell'orticella che ho fatto anche troppo, e sono matto, mi riposo. Tutto qua. Va bene Claudio, stammi bene, dai, alle prossime, avanti che dice, Riccardino, ci si... Ehi, ci sono, facciamo andare avanti Roberto. Ehi, ciao, come si chiama? Tonino, ciao Claudio, già passano, dai, momenti brutti passano per tutti, dai. Deve essere solo un divertimento, l'ho detto dall'inizio, poi se uno non li va, si suda tutto e fa altre cose. Pienamente d'accordo, ok, c'è qualcuno che chiama, mi sembra Eugenio, sotto, avanti. Ciao Robert, non sapevo che c'è anche tu, adesso quando mi sono spostato un attimino. Ebbene, quello che ha fatto la pernacchia, guarda che tua madre qua non c'è, quindi cambia canale. Avanti, chi c'è rimasto? Pomponia. Io sono andato adesso 5 minuti e basta. Chi è che ha fatto la pernacchia? Non c'è. Stavo cercando la madre, ma non c'è qua. Ah così. Vabbè dai, siamo bravi, dai, siamo tranquilli, continuiamo a starcene tranquilli, tanto non mi vale la candela. Non c'è motivo di creare le zizzanie, polemiche e cose. Poi se uno non gli va bene la compagnia si sposta o fa altre cose. Forse in quel momento c'ha cose più importanti da fare, le fa e basta. Io la vedo così la radio, mica va a fare roba a un coso, ma un abortante per un coso, proprio a me non me la fotte proprio nulla. Ok, vai Riccardo. Io vado avanti, io comunque saluto a Claudio visto che se ne sta andando e a risentirci. Comunque faccio andare avanti. Oh, c'era qualcuno che mi stava chiamando prima, non si è più sentito. Il Totolino avrà bruciato tutto. Non è poco fare. Sì, c'è sempre quello che cerca la madre, ma non c'è qua. Vabbè. E così comunque, vabbè, ripeto, io è raro che mi sentite la sera, è raro, vuol dire non sto facendo niente, perché di solito la domenica mattina qualcosa entro, sì, e non è che meglio oggi andare, usavo Maro. C'è Manuel, fattore perché questo per quell'altro, no, vabbè, ma non ti senti dire persone, e tizio ha detto questo, tizio ha detto quell'altro, tizio così e tu ne stai scendendo dalle nuvole, c'è cioè, che almeno sono questi livelli, da un po' ti dà fastidio, poi ci ripigi, ci riflitti, dice, ma non è che buone delle zizzane, no? Allora rimani sul chivalano, vabbè, la ripeto, no? A me mi ha fatto qualcosa, mi spengo un baracchino, c'ho il PC, accendo la televisione, sono una televisione di 55 pollici, che te me ne frega a me, e in camera c'ho la 40, le comodità ce le ho tutte quante, non mi manca niente, quindi, cosa me ne frega a me del baracchino, io se accendo il baracchino, fanno la chiacchiera con te, Roberto, con Riccardino, con Antonello, con Claudio, tranquillo, scambiarci qualche parola, ecco, prendi su un brasiliano se è possibile, ecco, rilassarti, non per altro, se uno lo usa per un altro scopo, ci si rammina che due paesi, sicuro tutto buonanotte, ho fatto assenza 10-15 anni, non me ne affutti, lo posso rifare, non me ne affutti nulla, stacco tutto. Sì, deve essere soltanto una valvola di sfogo per rilassarti e basta, non pa, perché se c'hai nervosismo e cose del genere, cambia professione, fai altro, dai. Io già mi hai visto, non mi farò mai con nessuno, tranquillo, e questo non è un segno di debolezza, ricordatevi di questo, essere tranquilli non significa debolezza. No, a me Claudio mi conosci, io sono una persona abbastanza tranquilla, serena, do anche il cuore, guarda, ripeto, se uno ha bisogno sono il primo che aiuto, non ho problemi di niente, però non mi devo rompere le palle, perché se no mi trova. Non mi piace neanche io come sono quando mi cazzo, no, voglio stare tranquillo, sereno, ho 66 anni, grazie a Dio la bocca naso me la cavo sempre, ma non voglio rilassarmi, passarmi i miei, diciamo, 5, 10, 20 minuti, un'oretta con gli amici e farmi un po' tranquillamente, se prendi ci trovarci, abbiamo un brasiliano, conosce qualche amico nuovo, non c'è problema, tutto. Sono talmente sereno, guarda Roberto, ti giuro, non ho bisogno di niente, posso spegnere il baracchino guardando la televisione, cioè del PC, non è problema, oppure mi continuo a incrementarmi l'orticella che ho fatto. E ho anche due miei cuccioli, guarda, che mi fanno sotto, vanno da caccia piccolino, una razza piccola, che mi fanno divertire. E mi rilassano bene. E quindi se non è possibile con il baracchino mi rilasso diversamente, è tutto qua. La maggior parte lo sanno male con il baracchino. Io, idem compattate. Ok, lasciamo un attimino di bianco, se vuole entrare qualcuno, se no riprende Riccardino. Avanti. Io neanche rispondo, dai, non c'è problema a questi personaggi. Vai, come si chiama? Riccardo. Grazie Roberto. Forse ve lo chiedo, state parlando di altro, però ti volevo chiedere, ma anche il tuo è il trasformatore, il trio? Cioè? È diventato, no, il mio era 220, è diventato 220. Perché, ma te l'ho mandato la foto che si vede che c'è il trasformatore? Maria è la versione americana che ha 110, diciamo non è un difetto, però cioè, devi mettere il trasformatore per farlo diventare a 220. Okay. E questo c'è il trasformatore esterno? Per... Sì, è il trasformatore esterno. Metto nel chiavalvolo e fallo scaldare bene qualche minuto, qualche 5-10 minuti quando accende, in modo che le valvole si stabilizzano e poi puoi fare la prova. Vai sui, come si chiamano, le bande basse, da, cioè, da 0,55 a 1,6, prova di lì, ci sono i canali Rai, mi sembra che sia, aspettate, te lo dico a quanto rimane, intorno a 1000 kHz c'è la Rai, ci sono un paio di segnali forti, perché se la solo provi di giorno, la notte ce n'è per i porci. Ho capito, boh, a babbo gli interessava, perché ho capito che è forte, però è sempre su un 0,30. Ah beh, questo è un ricevitore per le HF, mica lo usi per altre cose, non ne fai nient'altro, cioè per altre cose ci devi usare apparati più recenti. Questo va benissimo per ascoltare le HF, perché a valvole è molto silenzioso, c'è preamplificatore, però naturalmente bisogna vedere che sia tutto efficiente, perché si inizia piano piano quando lo scaldi, tienilo un po' acceso tu quando te lo dà, fallo scaldare bene dopo che l'hai utilizzato, perché tienilo un po' acceso un'altra mezz'oretta e vedi come si comporta, se inizia il rumore di alternata o cose del genere, se i commutatori funzionano bene, se la scala parlante è una doppia scala parlante, ce n'è una che ti fa i megahertz e l'altra ti fa i kilohertz, piano piano giri e vedi se tutto funziona bene, se gracchia. Io ho capito. Poi magari se capita, se in un orario troppo, non troppo complicato, se vuoi mi avvicino io a provarlo. E io. Se è un orario fuori dal lavoro. Ok, vai Tonino. Ok. Niente, a me piacerebbe avere, vabbè, avere un baracchino che ha tutte le manopole illuminate, quello azzurrino, quello arancione. Mi piace una cosa molto illuminata e fa piacere avere una cosa del genere. Ho visto io su internet, era così carino, bello. Vabbè, le manopole, diciamo, di quelli vecchia generazione illuminata, penso sia un po' raro, non ne ho visto, almeno a memoria mia. Ci sono quelli tipo il Pace e Royce che hanno tre strumenti belli illuminati, verdi, color loro, il canale rosso, diciamo quello sì, quelli che ho io, però con le manopole del volume Mickey Gain, RF Gain illuminati sinceramente non ne ho visto. Io ho visto una stazione di un tipo, mi ha fatto la foto, l'ha mandato, e anche un video, è tutto illuminato, doppia, raga, c'è allora forse il coso bianco, il contorno bianco della manopolina che c'era la luce azzurrina bestiale. Io ho gli smitter, per esempio, due smitter che c'erano l'azzurrina intorno, bestiale. Ma tu stai parlando di stazione base o di cosa? O veicolare? Sì, sì, stazione base. No, diciamo quelli al limite puoi fare, a me se uno gli piace, non gli piace la luce, perché le vecchie lampadinette non erano a LED, erano proprio a incandescenza. Le vecchie lucette dei vecchi apparati, di lì volendo uno si può mettere una lucetta a LED, solamente bisogna verificare le tensioni, quanti volti sono, perché normalmente sono a 12 volt con le lampadinette, se no devi mettere la resistenzina per abbassare la tensione, li metti dei LED azzurrini, rosa, non so, rossi, come li vuoi, uno per cercare di dargli un po' di luce un pochettino più calda. E le manopole devi cambiare, mettere quello con il coso lavorevole intorno trasparente. Se no, per cambiare il coso delle manopole devi trovare tipo alla 48 con le manopoline trasparenti, li metti delle lucette dall'interno, però devi avere il passaggio per farlo. Oppure li metti quelle barre a LED sottili sottili che adesso si usano nelle macchine quando apri lo sportello, non so se le hai mai viste a Matro, a rotoli sono, che te le tagli a misura, se li fai delle cose, utilizzando delle manopole trasparenti esce un po' di luce e riesci a farne uscire dalle lampadine. Ma se c'era già un apparato che usciva già così era meglio, che faccio che modifiche così. Va bene, pazienza. Naturalmente sarebbe meglio, ma non, sinceramente non me ne ricordo di averne visto questi apparati così, almeno questi soliti così, poi magari ci sarà qualcosa. Ok, vai Riccardo. Sì, allora anch'io. Oh, stazione base con i LED, come dire, con i LED, con luce non ho mai visto neanche io. Avevo massimo che ne avevo visto che erano modificati, però erano veicolari tipo gli Alan 48. Stazione in base non ne ho mai visto. Fanno di tutto di più, li mettono anche luci psichedeliche, li mettono tutte illuminazioni particolari, scenografia più che altro, perché a livello di utilità non è ti cambi più di niente, anzi per certi versi se ce l'hai di notte e ce l'hai per dire nel camion nel coso ti può dare anche fastidio questi riflessi di luce, perché c'hai l'occhio abituato al buio della strada, poi ti attacchi questo, ti giri un attimo e ti può anche dar fastidio. Ah, ho capito. Più che altro fa anche invece se il camionaletto di notte ti fa anche la baggio. Almeno quando quelli che i bambini che avevano paura a dormire li metti una lampa 48, quelli che si mettevano la lucetta nella presa per farli dormire, per non vedere i fantasmi la notte, li metti una lampa 48 illuminato e gli dici te poni di là vicino che ti fa compagnia. E tu di carina, piccolino, avevi i fantasmi di notte. A piccolo mettevo la luce, infatti, ne mettevo praticamente una lampada. Adesso li ha tutti ammazzati così. Sì, non ho più problema. Io invece, vabbè, più di una volta mi addormento con la televisione accesa, però qui si spegne perché l'ho programmata che a quell'ora si spegne. Però che mi concilia il sonno sono i cartoni animati. Sì. Non c'è problema, metti il filtro, non il blanker e tutti i fantasmi se ne vanno in camera. Ah, così, cacca. Se no metti la corrente elettrica, un cavetto attaccato alla 220, tutto in giro, come si avvicina, track. Poi si dimentica che la messa si attura nelle bagne e prendere la corrente. O ponevi lo spinato, metti, così almeno le rimane attaccato a un pezzo di pelle. Ok, dai, vediamo un attimino di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare e se no riprendi tu, Tony. No, c'è nessuno. Soccorrebbe. C'è la pernacchia, va bene, dai. Va bene anche questo, dai, anche questo fa scenografia. Ma te metti a basso che è pazienza. Il gusto. Quanto ve arriva voi per curiosità? Ma guarda, Santiago 7. E anche a me Santiago 7. A te Riccardo. Ho capito cosa, l'importante. No, è importante, è un simpatico, diciamo, un segnale di riconoscimento, una pernacchietta, dai. Ah, qua è sì. Probabilmente qualche portatile o qualcosa del genere, no? E dice sempre il suo cognome comunque. Non ho capito, scusa. Dice solo il suo cognome. No, non lo conosco. Sinceramente non lo conosco, per cui anche se quello è il cognome non lo conosco. Prova a dire il nome. No, non è il nome. Ah, così. Vabbè, dai, non ti vedo dare troppa importanza, dai. Non c'è problema. Cosa volevo dire? E ieri, come si chiama? Poi, non so se qualcuno si è trattenuto. Capri ha ripreso ieri notte. Io mi sono trattenuto fino a mezzanotte. No, non ha ripreso. No, perché è entrato un attimino, poi stava uscendo malissimo, infatti ha detto fa caduto, non so cosa sia successo, Va bene, dai, ok. Vai di nuovo Riccardo. Ehi, Roberto, volevo fare una cosa, non ho capito, ma quel trio ha l'alimentatore dedicato? Certo, ce l'ha all'interno a 220, se la versione europea. Poi se la versione americana dovresti mettere l'alimentatore, il trasformatore esterno che ti porta la tensione a 110, da 220 a 110. Come il Rolls che ho io è alimentato a 110 e c'è un trasformatore all'esterno. Capa, ma l'hai visto quello nella foto quando te l'ho mandata, si vede? Non ci ho fatto caso, sinceramente. E tra l'altro oggi ho fatto pulizia, ho tolto tutto, c'avevo una marea di cose, di immagini nel cellulare, ne ho tolto tutto, non potrei neanche rivederla adesso. L'ho intravisto da davanti, ma non ci ho fatto caso. Se avessi, dico l'apparato, ma lui ti ha detto c'è il trasformatore esterno, perché? Sì, ha il trasformatore esterno, ha tutto, anche il manuale, vabbè. E ce l'ho anche io il manuale, chi me l'ha dato a me mi ha dato anche il manuale. Ma il mio è un po' nuovo, non so se l'hai visto, è fiammante. Sì, è buono, non mi ricordo, c'è da perdersi, no, non mi ricordo. Niente. Era solo sporco, nel senso unto di tempo fermo, polvere incollata, eccetera. L'ho tutto pulito bene, lucido, le ho fatto tutte le manopole sgrassate, con lo sgrassatore, quello che usiamo in officina per pulire le cose meccaniche, ma ne ha tolto tutto, hanno cambiato colore le manopole, erano i marroni, adesso sono diventate grigio chiaro, grigio militare, e la contromanopola, quella più grossa, è tutta in alluminio presuffuso, pulito. Si è passato lo spazzolino nelle feritoie dove ci metti le dita, che così è tutto pulito. Ho capito, no, anche quello ha detto che è perfetto, va bene. Difficilmente uno ti dice che non va bene una cosa a me. Quando uno vuole vendere tutto perfetto, nuovo, fiammante, e la cosa migliore è sempre provarlo, tenerlo fisso, tenerlo in uso e vedere come si comporta. A quel punto lo sai, perché ne ho visto tante di cose, perfetto, come uscendo dalla fabbrica, poi avvi lì ed è un ferruviccio. Vabbè, ma ha detto lui che possiamo fare la prova, quindi non c'è problema. No, è tutto, anche non è stato mai toccato, anche le viti, si vede che è tutta roba originale. Chi ce l'aveva, questo è stato acquistato nuovo, ce l'aveva Giovanni, era il suo personale, e so che quell'apparecchio costava una barca di soldi quando è uscito, diversi centinaia di migliaia di lire, se non dire un milione e passa, mi ricordo sembrava intorno a 1.200.000 lire costava, ma stiamo parlando negli anni 70, quando negli anni 70 uno stipendio medio era 400.000 lire, quanto era più o meno? Si comprava una 500 con 500.000 lire, fatti il conto, adesso una macchina ci vogliono minimo la più scaccina 10.000 euro per comprarla. Con 9.000 altrove, dai. Nuova? Sì, la gran punta costa 9.700 euro. La grande punta? Sì, è la base però, Vabbè, ma poi c'è la messa in strada, c'è la immatricolazione, eccetera, eccetera. Forse, c'è da dire che la Fiat, la grande punta è fuori produzione, adesso ha abbassato del 40% i costi anche al 43% è arrivato per il costo del discorso del coronavirus, ci sono dei modelli che sono abbassati del 43%. Perché stanno facendo le panda adesso, stanno a ruba. Dai, comprate una panda invece, a vedere se la paghi 10.000 euro, non ti danno manco i cerchioni dalla panda. Guarda, io per comprare una panda a quel prezzo, manco ne compareggio. Ma panda è già una macchina, dipende tutto dall'uso che ne devi fare. Noi ne abbiamo in casa tre, una, due, tre, ne abbiamo avuto un'altra prima, abbiamo avuto la panda 30, poi abbiamo la panda 4x4 prima serie, la panda seconda serie 4 sportelli e la panda ultimo tipo, che è un bidone, il motore benzina è un chiodo, cioè c'è un sacco di problemi, se non li fai qualche lavoretto non va bene. Motore eccellente è il multijet, 1.300 multijet, infatti io consiglio sempre prendere la 1.300 multijet, perché quel motore l'hanno troppo strozzato, quello della panda è lo stesso motore che montano nell'appunto e in altre macchine pure la Bravo l'hanno montato, il 1242 è il vecchio motore, però l'hanno talmente strozzato che non cammina manco a ruccio, devi fare delle modifiche se no non va bene. L'azienda c'ha la panda molti getti diesel, se cammina, però che mi rompe le balle, arrivi al semaforo e si spegne il motore, che palle. Ma lo state stoppo c'ha? Eia. Vabbè, si può escludere, tu li lo, c'è il tastino. No, perché io la uso da remoto per avere capito. Andavo a tenere la posta da palazzo e portarla giù, agli amici della provincia. Cioè tu lo tieni sempre fisso lo start and stop? Non la prendo spesso con la macchina, mi può capitare di nuovo tra settimana, capisco. Allora io, se vuoi un consiglio da amico, cerca di tenerlo staccato, prima di tutto dico per la durata del motorino d'avviamento. Primo motivo, è quando comincia a facciarsi un motorino sono soldi. Secondo motivo, la batteria, anche se sono rinforzate, una batteria di start e stop costa più del doppio di una batteria normale. Io infatti lo sconsiglio a tutti, perché poi la resa è minima, sono più i problemi che ti dà, perché tutte queste accensioni e spegnimento alla fine ti creano dei problemi sia al motore ovviamente, e piano piano anche al volano, ai dentini eccetera eccetera, perché quando inizia a sgranare il motorino poi mi tornerai la risposta. Io infatti, per me è stata una cosa inutile, le macchine nuove non lo stanno neanche più mettendo tra parentesi gli ultimi modelli. Ma io la prima cosa che ho pensato è prima qua parte tutte le spazzole del motorino. Ripeto, allora piace così, sono siciliano, cosa me ne frega a me, contenti loro, la provincia già ne ha di neanche. Ah, non era tua la macchina? No, negativo, io non ero Fiat, io ho la porta Focus. Ah, scusa, ho capito che fosse la tua, per cui tutti i dini già pagano l'auto. Ti dico, però le batterie sono rinforzate, hanno gli elementi rinforzati e costano un bel di denaro rispetto alle altre normali, perché una batteria del multijet sono circa 55 ampere, se la prendi normale la paghi 80 euro esagerando, se poi la puoi trovare anche di meno, se la prendi rinforzata ci vuole più del doppio. E poi schiacci la pressione e ci mette il mazzo. Ma io ho 70 ampere, vabbè, la mia è 1800 turbo diesel comunque. Cos'è la macchina tua? 1800 turbo diesel. No, che macchina è? Ford Focus, la prima serie, 115 cavalli, 85 kW. Di che anno? Dopo 2002 o prima? 2004. E io è la seconda serie, quindi. Ma è la prima serie, l'hanno detto. No, il motore è buono, un ottimo motore c'ha quella macchina lì, all'epoca era l'avanguardia, vabbè, adesso ci sono dei miglioramenti, però quando è uscito è un signor motore, quello lì aveva. Roberto. Dimmi, Riccardi. Signor motore, c'è anche il Dodge Ram. Cacchio, quello tuo, con un pezzo del tuo motore ne fai il mio e quello di coso, di, come si chiama, di Tonino, e ti rimane anche un altro pezzo per metterlo. Quanto è quello di 6.000 di cilindrata? 6.000 di cilindrata turbo diesel. Inteso, Tony? Deve fare. No, troppo, troppo. Ancora non ci sono tornato a essere un giudice o un notaio per una macchina così. Ma ne hanno tre loro di macchine del genere. 8 cilindri, una quanto è? 6.200, l'altra 5.900, quanto è? Il Dodge 6.000, lo Chevrolet, quello blu, e il pick-up è 5.700, e invece la Tifon Wagon è 5.000. Quindi un'utilitaria, dai, diciamo, un po' più di una Panda. Ma con l'altro c'aveva il Pontiac. Allora, cosa ne fai? Chiama anche. Vabbè, lui per zero gira a dividere 400-500 mila euro ogni lavoro che fa, capito? Ha fatto i rifrigeranti in tutta l'Italia, anche all'estero. Non è te che lo prego, ma te a me no. Sì, no. Lo conosco, quello che ha la Pontiac. Ma non penso che lo conosci, eh. Perché rare volte che viene a Sassari. Vabbè, ma aspetta, ce ne sono diversi che hanno la Pontiac. C'è quel, l'ottico di Sassari, c'è l'ottico D, vabbè, che ha la Pontiac, e poi un altro che non mi ricordo il nome. No, è cognato, innanzitutto è siciliano, e poi c'ha lo stabilimento a Milano, e poi rare volte viene qua, poche volte, infatti a volte ci va mia sorella. Direttamente da lui, perché lui era le volte che viene qua. Ah, ho capito. E la Pontia che è rossa. Poi se l'ha preso Mercedes, ma bello veramente. Non so, era 3.000-4.000 centrata, tutto in pelle nera. Vabbè, ma io, guarda, sinceramente, Robè, hai più di là, ma una macchina, un sì, no. Sì, no, non è mai nulla. Ok, c'è poi il Pontiac che c'è la come si chiama, autoscuola utilizza il Pontiac per fare le prove di guida degli studenti. Prego. Sì, avanti il break. Buongiorno a tutti. Ciao Tonino, mi sembra che l'altro era Roberto, mi sembra. Buon ascolto a tutti. Sì, ciao, ben sentito, non sono riuscito a identificare chi sei. Comunque qua sono Roberto, c'è Tonino e c'è anche Riccardino. Ti rilancio Riccardino e poi ci dirai chi sei, perché dalla modulazione non riesco a riconoscerti, almeno forse non ci siamo mai sentiti. Avanti Riccardino. Ciao, dimmi subito il tuo QRZ. Cigomino. Ciao Tonino, ciao Roberto e ciao, mi sembra, Riccardino. Ben sentiti, eh. E dillo che nominativo ti sei messo adesso? Cos'è, Tony? A Riccardino, anche a Roberto, che nominativo ti sei messo? Ah, sempre quello, no, non ho cambiato di nominativo. E dillo, no? Ginko. Ecco, Ginko, vabbè. Ginko, così adesso? Mio figlioccio, cioè. Non l'ho mai sentito, di nome invece come si chiama? Manuele. Ma ci siamo mai sentiti, boh, a memoria mia, boh, non mi ricordo. Non lo so, forse pure, Robè. Robè, lui c'era per 10 anni fa. No, no, io, vabbè, ci manco. Ho iniziato nel 2004, effettivamente, anche se da piccolino qualcosa ascoltavo. Però poi sono mancato qualche anno, e così accendevo saltuariamente, però non mi ricordo. Avanti, Riccardino, che lui, Riccardo è il più giovane di tutti, sicuramente, non credo che ti abbia mai ascoltato. Non penso proprio. Ma la radio c'è adesso? No, sto provando la radio da Luca, la radio mia, per vedere come andava. E boh, stiamo provando l'antenna, ma è troppo alta di cose, 1,9, 1,2, e non ce la facciamo abbassarla più di tanto. Le stazionarie? Sì, yeah. Che antenna è? E da un radiale la stiamo facendo, da un radiale di Mantova. Da un radiale. Vabbè, io non è che sono bravo su quante. E anche Luca, ma da sei Luca del Monte o Luca Flipper? Dai, Luca Flipper sono, vabbè. Dai, bravo Luca, dai, non c'è problema. Luca costruisce lui l'antenna, già è capace. Ok, no, Luca del Monte l'ha fatta dalla fidanzata sul terrazzino, ha utilizzato un radiale di Mantova, l'ha accordato e gli ha fatto un tipo una mumbera, una cosa del genere. Ma questa non lo so, questa qua non riusciamo a abbassare la cosa delle stazionarie. Oh vabbè, se non superi il 2 non è che sia gravissimo, a meno che non hai potenze esagerate, ma con un baracchino non è che ti possa fare danno eccessivo. Dai, quando è oltre i 2 devi stare un po' attento. Comunque Luca già ci ha analizzato delle antenne, salutamelo pure, ogni tanto devi farsi vedere. Ok, ci ha analizzato le antenne, sa come intervenire. Ok, dai, comunque adesso vediamo un po' se riusciamo a farla abbassare di più. Avanti, che vuole entrare? Io non ho sentito nessuno, boh. Sì, da un momento all'altro, quando c'è stato un secondo di bianco, vabbè. Oh, Manuel. Dimmi tu. Luca, non c'è l'acqua, che cosa, la stazione base? Boh, stazione base, mi sembra di no. No, veicolare suo, cioè, boh. Vabbè, ok. Se il Saturno è, come mi sta dicendo, 350. Ma a fine dia, che non lo voglio capire. Appunto, io lo stesso 350 non lo spenderei mai. C'era un altro, quanto è? Non ricordo se era 2,80, lo stava vendendo una persona. Mi fare, aspetta un attimino, forse Luca lo sa di quello di 2,80. Oh, Robè. Dimmi tu. Da Cagliari, 200 euro, me l'ha mandato, mi ha mandato un bonifico. Sai cosa vuol dire immacolato? Allora ha avuto un bel colpo di fortuna, perché un Saturn, ecco, non lo paghi meno di 250 euro, a meno che non sia un bidone, perché li ho visti anche a 300, vabbè, 350 non lo comprerei mai, però il valore suo sono, se è discreto, non meno di 250 euro. Se poi te lo chiedono di più, a quel punto ti prendi un 440 o un 140 per spendere su. Certo, no, perfetto, ma ti giuro, mi ha fatto il video, mi ha mandato, insomma, veramente un cappa. Difficile trovare perché sono tutti manomessi, tutti tirati, eccetera, eccetera. Poi qualcuno ha qualche problema di alimentazione, ci fanno dei giochettini dentro, eccetera, e ti danno un bel di problemi. Ho visto qualcuno gli ha messo un alimentatore switching dentro e ha fatto un bel lavoro e funziona egregiamente. Ma ti dirò, questo è perfetto, è tutto. Normalizzo, non ha che detto, e va bene così, perfetto. Ma io sto cercando, ripeto, qualche stazione fissa, ma non copiare, se io ho uno Saturneco non voglio un altro Saturneco assolutamente, poi con la cifra non la spenderei mai, per con la cifra comprerei un keyboard, non ho capito, come hai detto tu giustamente. E niente, un altro stazione fissa, ho un pace vecchio, molto vecchio, troverei altre stazioni per il review, più altre, diciamo, collezione bellezza, ma non per parlarci maggiormente, anche se si accendono, funzionano, non me ne ha fatto nulla. Ma qualcosa già si trova, dai, ti faccio sapere eventualmente, qualche amico che c'ha qualcosa già, tu non, cioè anche se non è perfettamente funzionante, è importante esteticamente sia in ordine, così sta dicendo. Roger. E magari qualcosa trovi, di quello già c'è. Chiedo un po' in giro, dai, ti faccio sapere eventualmente. Sempre vintage, roba vecchia, roba dei vecchi, tipo stile Royce, Pace, eccetera, eccetera. E Pace io lo so, io ce l'ho, vecchio, sempre stazione fissa. Sì, cos'hai detto Riccardo? No, stavo dicendo a Tonino che ne avevo visto uno molto bello che non funzionava molto, però era bello. Bisogna vedere, ma è Assassin? No, negativo. No, io se Assassin è meglio, perché non mi va, c'è un altro tipo che spendo facilmente soldi così, io quello di Cagliari te l'ho mandato perché mi ha dato il codice IPA che da lì non scappi, quindi vorrebbe farlo fio. Molti mi hanno chiesto a posta in pino, a mia nipote l'hanno fregata a 400 euro. L'ho ordinato, diceva, il telefonino per il figlio, cazzo, l'hai bruciata, poveraccia. Non ho voluto fare per niente. Con mia lacrima l'hai già fatto, no. Io se trovo a Sassari o di qualche paese, non me ne frega niente, vado, e faccio. Sì, l'ideale è sempre sentirli e vederli, gli apparati. Poi, se è un affare mondiale, uno... L'ideale è se riesce a farlo mandare contrassegno le cose. Io, quando riesco a farmi mandare contrassegno, raramente io ordino cose che non siano contrassegno. Sempre contrassegno con la riserva, così prima di accreditare i soldi, me lo controlleggio, cioè che ti mettano un mattone dentro. Esatto. Ma ho visto che con contrassegno quasi nessuno è robe. Tutti si rifiutano, allora tieni di rugontoli. No, vabbè, ma poi quando ci parli con una persona, io per il lavoro che faccio, i contatti con le persone ce l'ho tutti i giorni, per cui ho un po' di esperienza. Grazie a Dio a me non mi ha fregato nessuno e mi auguro non mi freghi. C'era soltanto quel discorso che ho raccontato l'altra volta di quell'Intec che non arrivava, 15 giorni che non arrivava, poi arrivi tu che il padre mi ha detto di restituirlo, mi dava i soldi, mi pagava anche le spese di trasporto. Ho detto no, l'unica volta che un po' tardato, 15 giorni per arrivare la merce, e boh, aveva fatto il figlio di nascosto dal padre, era in periodo estivo di ferie, lui mi ha detto no perché eravamo in ferie, non eravamo a casa, non avevo internet, eccetera eccetera, per quello non abbiamo risposto. Di lì è stata l'unica volta che io ho fatto un acquisto senza coso, senza scatola chiusa, diciamo. E che ci dà diverse poche, infatti. Ma io comunque mercoledì devo partire presto a Nuoro, quindi se li traccio un po' che cosa lì, appena siamo partenza. Invece per farmi una visita cardiologica devo andare a Nuoro, perché non ce n'è, c'è Cagliari e Nuoro, basta, salsa rinuncia, devo aspettare mesi, tanto vale che se non faccio a Nuoro, una passeggiata, buonanotte, state, ne approfitto perché vado a trovare mio figlio che abita a Bosa ed è vicino. Cacchio, Bosa non è proprio vicino a Nuoro, sta nei 60 km. Sì, ma è vicino, è una strada che io faccio la 131 bis, dopo Budoni faccio Posada e poi da Posada poi con Freddo a lui andiamo a Nuoro. No. Scusa Tony, ma dove è? Tuo figlio è a Bosa? Sì, abita a Bosa. Ah, c'entra la 100 bis. Ma scusa, mi sono ingrippato, abita a Posada. Infatti ha giudito, cosa mette a Bosa con Posada? È tutta l'altra parte. No, mi sono ingrippato io, abita a Bosa, no, è Posada comunque. E da lì è vicino, capito? Sì. Erano a 35 km più o meno. Dimmi Riccardo. Ma vero, super vintage, se non sbaglio, non è Alan 555. Non ho capito. Per baracchino vintage, vero, non è vintage l'Alan 555. Non ricordo. Vabbè, è vintage, no. È certo che è vintage. Ah, ho capito, no, perché avevo trovato a dirglielo a Tonino. Perché se lo troviamo su un posto in Sardegna va bene, capito? Se a me fuori non è che mi fido più di tanto, come dice Roberto giustamente. E il controsegno non le fa così nessuno. Tu ti posta IP, no, mi interessa niente. Se mi ha detto lì, ma come ha detto quello lì, è più rintracciabile, è diverso, c'è tutto. Non ti può fregare, capito? Quindi, mia nipote l'hanno fregata, anche se c'ha il codice IBA, però con la posta IP l'hanno fregata. E non ho potuto fare niente. No, ma te lo stavo dicendo perché era in Sardegna. Dove? Calgary. E cadere poi già distante, capito? Adesso ho trovato uno, ma sarebbe stato a fare 13, tanto ci devo andare. Cerca, ricordi, dai. Avanti. Ah, poi là la 5-5, è uguale a Saturnè, come Riccardi. Lo so, ma non è per me, io non me ne faccio niente. No, ma lui c'aveva già il Saturnè con Tonino, per cui cosa se ne va? No, se è uguale non me ne faccio nulla. Allora, Kawasaki. No, se è uguale non me ne faccio niente. C'è quello che è uguale, che è dorato, vedi, è già un colore diverso, allora potrebbe accadere anche a leggermente diverso. L'Excalibur. L'Excalibur è argentato, alluminio satinato, ma è sempre la stessa cosa, il Petrus, Lafayette, sono tutti uguali quei baracchi. E non ce la fai a dirlo subito, io non lo sapevo neanche che aveva il Galaxy. Se te l'ha detto, l'ha preso a 200 euro, nuovo. È uscito di testa. Devi stare più attento, se no ti tiro le orecchie. E sei piccolino, Riccardì. Cosa devo dire io? Ha già 60 anni, posto che tanto. Oh, ma già si trovano, se entri. Se capita, già ti faccio sapere, dai, se ne trovano tanti di baracchini. Poi, visto che non hai messo limitazioni di stato d'uso, per cui sei un apparecchio, anche se c'è qualche problemino, però esteticamente è integro, accende e coso, già si trovano a poco prezzo quelli. Poi, se lo vuoi perfetto e ordinato, a quel punto bisogna stare un po' più attenti. Certo. Vabbè, ti ringrazio, Roberto, anticipatamente. Ci mancherebbe, non c'è problema. Ok, vediamo l'amico che c'era prima, Emanuele, così, Ginko, così adesso. Ehi, ma Ginko non era l'ispettore di Diabolik, così Emanuele? Sì. Io lo chiamo Cicomino, è mio figlio c'è pure. Non Cicottino, a chi altro sarebbe Cicottino? Lo conosce? No, Cicomino. Ah, questo no, Cicottino è quello che li fanno i video, non l'avete mai visto, tipo Rocchi, lo conosci Rocchi? Quello che va in giro a sala. Sì, lo vedo, spesso anche la mattina non andava fermato. E Cicottino non è un po' più basso di lui, un po' più bruttino, e lui, io attore ritto, lui so che si tende, canto bene, lui ti fa il video, lo fanno parlare, mi cudo una sussa. Robè, Diveri. Io quando passo qualche volta in piazza lo vedo sempre a Rocchi, che un giorno stavamo andando a museo, e se vedi correndo tutti, forza ragazzi, quello correndo con tutte le fasce in testa. Passa sempre, sale su a scala di gioco e ritorna, lui abita a Latte Dolce, sale da Latte Dolce, fa la scala di gioco e poi se ne ritorna a casa, anche d'inverno, tutti i giorni lui lo vede. Robè, dimmi. Ma questo Cicottino chi è, quello che ti manca poi di? Quello lì è che poi io ricordo una giusta a me, io sono quasi tenni, lo sfido, li fanno le domande, hanno conosciuto il certo uomo, lì a venire, sono quasi parlando poi, non sarebbe molto molto stretto. Cioè, l'ho visto in un video quello lì, per carità, mi ha fatto bisogno di disastro. Guarda, sono il trio delle meraviglie, Roberto Belli Cappelli, Cicottino e Rocchi Balboa. Ma di su Rocchi già cammino benissimo, quanto cammino fatto. Lo conosco da quando era ragazzo quello lì, bene, conosco anche i fratelli e cose, purtroppo diciamo qualche problemino, cioè, ma bravo ragazzo, non dà fastidio a nessuno, lo vedi, lui si fa le sue cose e poi se ne torna a casa. A livello di allenamento è allenatissimo, perché uno che va tutti i giorni, a Natale, tu lo vedi a Natale, lui sta facendo l'allenamento tutti i giorni, la mattina presto parte, sale a scala di gioco e se ne ritorna, sono tanti chilometri in mezzo, soprattutto perché sono in salita. Fa bene camminare, io vedi, avrei potuto camminare un po' in più, ma non posso farlo perché c'ho l'ernia nel disco, mi fa altrimenti, devo bloccare. La sull'ernia è una cosa delicata e soprattutto fastidiosa. Ok, vediamo un pochettino se è rientrato qualcuno sul 10, che io tra poco devo uscire, e se no riprendi tu Riccardi. Avanti 10. Prego, buongiorno, sono io in ascolto e buongiorno a tutti, Vulcano Gigi. Chiami a Gigi, già un giorno senza sentirsi Gigi, come va? Bene, no, stavo acceso e vi stavo ascoltando, però sto facendo cosa, capito, e ascoltavo, dai, e stavo ascoltando, adesso niente, no, ho capito, che baracchino stava cercando, coso, Tonino mi pareva aver capito. Ciao Gigi, comunque, un baracchino qualsiasi è stazione fissa, che non si è passato l'unzuzzo, insomma, anche se è vecchio non me ne frega niente. Ma che cosa? Perché tu, ho sentito, c'è il Saturnecco, c'è quello, cosa, allora al limite cosa te ne fai di un baracchino vecchio, come dici tu? Allora, io mi sono fatto un mobile particolare, che voglio riempirlo, capito? Per bellezza. tipo museo, non me ne fotti nulla, è un video che voglio prendere. Ah, ho capito, no? Ah, ma tu vuoi di quelli vecchia data allora, stai cercando? Ma vecchia data, che se non è vecchia data, è proprio che sia una stazione fissa, che sia diverso di quello che ho io, giustamente. Non posso avere due paparacchini uguali. Ah, ho capito, No, no, io sai cosa c'ho io? Io c'ho, c'ho un'ala 88 S, ne avevo tre. Precisi, uno era Ana, l'altro era della Inter e l'altro era Faietti. Erano tre baracchini precisi, identici, gemelli, vero sia che questo Ala 88 della CTE era vecchiotto esternamente, ma era bello dentro, bello nuovo. Allora cosa ho fatto? Ho tolto, avevo tutto i tappi e il frontalino dell'Intec 2001 mi pare che sia, e l'ho passato, però sono tutti precisi i baracchini, sono tutti della stessa gemelli, ne avevo tre gemelli, capito? E poche parole me ne sono rimasti due. Uno, vabbè, ci ho giocato sopra, io ho tolto dei pizzi che mi serviva per un altro e l'ho eliminato, però l'88